Irrinunciabili per RadioBigWorld.com presenta Lo Squalo, un film di Steven Spielberg. Quando penso a questa pellicola, penso che il filone uomini contro creature più o meno mostruose abbia preso una linea completamente differente. I film su bestie che uccidono e sbranano l'uomo sono in genere delle tavanate pazzesche, scusate il gergo tecnico. Nel complesso sono film molto approssimativi che possono sì anche divertire, ma però sono carenti terribilmente in fascino, sono fondamentalmente fatti con lo stampino. Lo Squalo era sì nato come blockbuster per la stagione estiva, questo per volere dell'Universal, ma il regista americano ha avuto molte accortezze nel realizzarlo. Innanzitutto si è rifiutato di girarlo in una vasca artificiale o in un lago. Spielberg voleva girare nell'oceano, e così è stato. I dialoghi spesso erano decisi con il cast la sera prima delle riprese, tipico della scuola francese. Diverse persone prese come figuranti erano gente della località dove appunto hanno girato il film, scuola italiana. Ha fatto dunque in modo di rendere il tutto il più realistico possibile e soprattutto ha voluto ricreare un'esperienza ricca di tensione. Noi Lo Squalo lo vedremo veramente bene solo nella seconda parte del film e non ne sentiamo la mancanza. Il merito è del montaggio e della fantastica colonna sonora di John Williams. Noi non lo vediamo, ma sappiamo che c'è e lo percepiamo. Il pericolo è imminente, perché in mezzo all'oceano siamo degli ospiti. Non è il nostro habitat naturale, dipendiamo dai mezzi con cui affrontiamo questa infinita distesa di blu. È una paura primordiale. Lo squalo è un animale antico ed è cambiato molto poco rispetto all'era preistorica, perché è un predatore perfetto. I personaggi principali del film sono tre, completamente differenti tra di loro, ed è per questo che probabilmente funzionano così bene. Una improbabile squadra che avrà il compito di catturare la bestia che terrorizza la località turistica, a bordo di una piccola imbarcazione chiamata Orca. Abbiamo uno sceriffo, che è un padre di famiglia impeccabile, con bambini piccoli, e possiamo dire che è un vero americano, ma ironia della sorte ha paura dell'acqua. Abbiamo poi un giovane ricercatore, mosso da una vera passione per l'oceano, però forse è quello che tra i tre ha meno esperienza di vita. Ed infine il mio preferito, Quint, il mitico vecchio lupo di mare, spigoloso, ti colpisce sempre con le sue battute, estremamente pragmatico, non è un soggetto facile. L'attore che ha dovuto interpretare appunto Quint ha dovuto per forza di cose perdere il proprio accento newyorkese perché malstava con una figura del genere, e questo per capire comunque quanto Spielberg fosse attento ai dettagli. Dovranno convivere tra di loro questi tre personaggi, come abbiamo detto su una piccola imbarcazione. I rapporti tra di loro sono ricchi di battute, aneddoti e stoccate, che servono anche a stemperare un po' la tensione del film. L'aneddito più famoso è probabilmente quello che racconta Quint, che tra altre cose è una storia vera, della Seconda Guerra Mondiale, mi ha sempre affascinato. E riguarda appunto l'incrociatore Indianapolis, che era impegnato nel trasporto dell'involucro e la carica di uranio della prima bomba atomica. L'incrociatore però viene affondato da un sommergibile giapponese. E la missione era segreta, molto segreta, così segreta che i naufraghi dell'incrociatore americano sono stati salvati solo dopo 3 giorni. E durante questi 3 giorni in mezzo all'oceano sono stati alla mercé degli squali. Per cui su circa 900 persone se ne salvarono solo poco più di 300. Secondo le parole di Quint, gli squali hanno occhi senza vita, palle nere senza luce dentro, come bambole, e quando uno ti si avvicina non credi neanche che sia vivo, finché non ti morde. Le riprese sono state ostiche, difficili. La popolazione non gradì inizialmente la presenza della troupe. In particolare la presenza degli squali meccanici, non erano tanto simpatici. La cittadina comunque non fu stravolta, anzi, non si toccò praticamente nulla. Giusto? Si costruì la baracca di Quint e il mitico cartellone pubblicitario, quello dove c'era la ragazza sul materassino. I veri problemi arrivarono con le riprese in mare aperto, poiché tra vento, onde e correnti bastava veramente poco per far saltare le inquadrature. Aggiungiamo poi i problemi degli squali meccanici, che a un certo punto smisero di funzionare, e da lì l'idea geniale dei barili galleggianti. Oggi purtroppo non abbiamo più il fascino dello squalo. Abbiamo uomini dalle capacità esagerate che combattono delle mostruosità assurde. Oppure abbiamo delle creature mostruose che divorano persone semplicemente stupide. Io adesso sto dalla parte dei mostri, perché non abbiamo più personaggi ben caratterizzati, ma soprattutto plausibili come i tre che stavano sulla piccola imbarcazione orca. Va bene, il protagonista è la bestia, in questo genere di film, ma tutto intorno c'è un'umanità, che è importante, con cui lo spettatore dovrebbe creare una certa sintonia. Per cui, vivi i mostri e buona visione.